Caro Trevor, intanto ti ringraziamo per essere Grazie a stato con voi. noi. Speriamo di averti anche live, anche in radio, magari, oppure chi lo sa, con i Sadist al Circolo Colony che abbiamo qua proprio vicino vicino. Ah, non Dove... lo conosco Roberto, un amico. Grande Stanno facendo Roby. un Guarda, grande lavoro e speriamo che ti auguri, ecco. per Brescia è veramente qualcosa di grosso, ha No, no, cambiato le certo. carte in tavola, il grande Roby. Ma tra l'altro in posti dove la gente credo sia ancora Brescia, Bergamo, dove la gente sia ancora ricettiva, fortunatamente per quanto riguarda il nostro genere di musica. Quindi veramente cerchiamo tutti insieme di mantenerlo perché è tanta roba, non dobbiamo fare in modo che questi locali qua rimangano ancora aperti, ecco. Esatto, quindi massimo supporto a Roby, al Colony e a Sadist, ovviamente. Assolutamente.